Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata. Gli italiani, come sapete, sono grandi appassionati di elettronica di largo consumo e grandi fruitori di telefonini, personal computer, oggi nelle nuovissime versioni come iPad, iPhone e quant'altro. E naturalmente l'offerta commerciale attorno a noi non manca, l'opportunità di scelta è vastissima e sappiamo anche spendere bene il tempo nel valutare queste offerte. Attitudine che adottiamo anche nella scelta, per esempio, degli elettrodomestici. È però anche vero che pur mettendo in campo tutte le nostre migliori doti selettive, possiamo incappare in qualche disavventura dopo l'acquisto: la lavatrice che si rompe, il personal computer con la batteria difettosa e tanto altro ancora. Allora, abbiamo tutta una rosa di garanzie e diritti, ma i consumatori non ne hanno un quadro preciso, per cui oggi ci siamo voluti occupare proprio di questo anche in occasione dell'uscita della guida completa come funziona la garanzia, redatta da una testata online amica di Radio 24, di day.it, che ci immerge oggi nelle norme delle codice del consumo. Allora, con noi stamattina il direttore di questo portale di tecnologia, Gianfranco Gardina, esperto Giardina, ti ho anche cambiato cognome Gianfranco, buongiorno, esperto di audio, video ed elettronica di consumo. Amico soprattutto di Enrico Pagliarini per 2024, sì, spesso, però qualche volta hai contaminato anche la nostra trasmissione. Noi assolutamente sì, per esempio col digitale terrestre. Ecco, esattamente. No, anche lì, bravo, hai fatto proprio un bel ricordo, hai riportato alla nostra memoria, perché sarebbe anche un tema sul quale ritornare, perché in molte parti del territorio non funziona granché, casa mia è una di queste per esempio, poi magari ti chiedo qualche informazione in privata sede. E allora, quindi parleremo appunto delle, non tanto delle novità, ma tutte quelle che sono le garanzie post vendita, quando rinnoviamo per esempio l'arredamento della nostra abitazione o il nostro parco tecnologico. E quindi insieme a Gianfranco con noi questa mattina anche Albino Sonato, presidente di Euronix e di Aires, che è l'associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati. Presidente, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, abbiamo già anticipato sul nostro profilo Facebook proprio ieri il tema del quale ci saremmo occupati, e potete ben capire che è un tema molto popolare che ha suscitato già grande attenzione da parte degli ascoltatori, che quindi anche oggi possono, oltre che scrivere su Facebook naturalmente, interpellarci con i canali tradizionali di Radio 24 all'800 24 00 24 per le chiamate in diretta, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare su Facebook nel nostro profilo salvadanaio-radio24. La borsa, molto rapidamente, borse positive stamattina senza però grande entusiasmo, la prudenza regna sovrana tra gli investitori, lo fa da molto tempo ormai, e soprattutto in questi giorni in cui siamo alla vigilia del cruciale vertice di Bruxelles, nel quale chissà saranno definiti una volta per tutti i destini dell'euro. Parigi più 0,33%, Francoforte più 0,18%, Londra più 0,30%, Milano più 0,61%, sul FTSE MIB euro su dollaro a 1,2495, lo spread fra BTP e Bund è sui 455 punti base. Oggi il Tesoro ha collocato bot semestrali per 9 miliardi, tutto l'importo previsto, ma anche stamattina il tasso di interesse pagato è salito al 2,96% dal 2,10% del mese scorso. Siamo ritornati sui livelli dello scorso dicembre. A Milano i migliori titoli: Mediolanum più 2, Saipem più 1,91%, Generali più 1,54%, Terna più 1,45%, Banco Popolare più 1,43%. Sono scomparsi dai migliori titoli i due colossi bancari che da stamattina dominano l'attenzione della cronaca finanziaria: Unicredit, dopo la notizia dell'ingresso al 5% nel capitale del fondo britannico Pamplona, mentre Monte dei Paschi, che guadagnava 3,5 punti all'inizio, ha ridotto notevolmente il suo guadagno, anzi lo ha annullato, perché adesso il titolo è negativo per lo 0,16%. Un piano industriale molto importante presentato questa mattina, anzi in corso di presentazione peraltro ai giornalisti proprio in questi minuti. Noi peraltro di questi due casi ce ne occuperemo domani a Salva Danaio, sia le vicende di Unicredit che di Monte dei Paschi. Per Monte dei Paschi appunto c'è anche la notizia di un forte taglio di posti di lavoro, 400 filiali che verranno chiuse, nuovamente il ricorso ai Tremonti Bond per la seconda volta, questa è una delle pochissime banche che lo ha fatto nel nostro paese, e siccome in borsa il titolo oggi vale sempre di meno perché capitalizza qualcosa come 2 miliardi e mezzo di euro, potete ben capire appunto come una Tremonti Bond per 2 miliardi equivalgono quasi ad una nazionalizzazione della banca. Insomma, però tutti aspetti un po' complicati dei quali parleremo domani. Questi sono i principali temi del giorno in borsa, noi però andiamo invece al tema di cui abbiamo deciso di occuparci quest'oggi a Salvadanaio, l'acquisto di frigoriferi nuovi, del frigo nuovo, della lavatrice nuova, del nuovo telefonino e tutte le garanzie che ci devono essere offerte sia dal rivenditore che dall'azienda produttrice appunto di questi. Bene, allora Gianfranco Giardina, intanto facci un po' l'ABC di questa guida che esce oggi, come la troviamo, dove la troviamo e come mai ti è venuto in mente di tornare ad esaminare questi aspetti? Beh, la troviamo sulla home page di dday.it in questo momento, liberamente scaricabile, e siamo tornati a trattare ancora una volta di questi argomenti che in teoria sarebbero già noti, dovrebbero essere arcinoti già da anni, perché le domande continuano ad essere ricorrenti, le poche chiarezze nella testa dei consumatori e qualche volta anche nei punti vendita, devo dire sempre meno, ma capita che anche nei punti vendita non ci sia la giusta chiarezza, beh, ci ha fatto pensare che ancora va fatto molto in tema di divulgazione su questo tema. C'è da dire che la legge è molto complessa e questa è l'unica cosa che mette tutti d'accordo, consumatori, retailer, operatori, produttori, eccetera, eccetera. La legge è molto complessa, la sua applicazione non semplice, l'interpretazione anche qui un po' lasca, e quindi a seconda del tipo di interpretazione i diritti si comprimono, si espandono, e quindi anche qui c'è bisogno anche di appoggiarsi a quella che in molti casi è diventata nel corso degli anni la prassi, e quindi quello che ormai è acquisito dal mercato come un modus operandi assolutamente condiviso, almeno per quello che riguarda lato consumatori, le associazioni sicuramente dei consumatori, e lato rivenditori, i rivenditori seri. Qui va fatta una grande distinzione, una prima grande distinzione. Se l'elettronica di consumo spesso si compra guardando solo il prezzo, perché non si sa perché è così, però si compra l'elettronica di consumo, si fa un confronto sul prezzo e si va a comprare dove si risparmiano anche 2 euro, beh, oggi dove i diritti del consumatore relativi alla garanzia sono offerti fondamentalmente dal rivenditore, beh, la scelta del rivenditore deve basarsi anche su dei contenuti del rivenditore stesso, soprattutto in tema di serietà. Quindi comprare da un rivenditore serio, affidabile, che c'è per i prossimi 2 anni e risponde a un telefono, a un negozio, è visibile, o anche se è semplicemente online, è un'insegna importante, quindi ci fa capire di essere affidabile, beh, è tutto un altro aspetto. Risparmiare pochi euro per poi trovarsi a un guasto, che può capitare anche nei migliori prodotti, trovarsi poi con l'impossibilità di ottenere una riparazione in garanzia, magari semplicemente perché il rivenditore scompare o non esiste più. Ma sono dei casi molto diffusi? Sono dei casi, ahimè, diffusi, che vengono mitigati dal fatto che, oltre alla garanzia di legge, che ricordiamo deve essere riconosciuta dal rivenditore, normalmente si aggiunge anche una garanzia convenzionale offerta dal produttore. Va ricordato però che quella offerta dal produttore non è assolutamente obbligatoria, cioè il produttore potrebbe non riconoscere alcuna garanzia, riconoscerla per un periodo diverso dai 2 anni che invece riguarda la garanzia di legge, potrebbe avere, come viene chiamata normalmente, garanzia limitata, delle limitazioni, quindi essere riferita soltanto ai pezzi di ricambio, non alla manodopera, o prevedere dei costi, per esempio anche solo di trasporto. Insomma, possono esistere tutta una serie di clausole di esclusione che è bene conoscere, un po' come funziona per le polizze di assicurazione. Mi è venuto un esempio così che adesso mi veniva in testa non appena ci stavi descrivendo un po' quello che può essere la dinamica all'interno. Come si compra una marca piuttosto che un'altra perché magari vengono offerte delle garanzie o delle affidabilità migliori, allo stesso modo bisogna scegliere il rivenditore sulla base della sua affidabilità, perché la garanzia di legge deve essere riconosciuta proprio dal rivenditore. Certo, Presidente Sonato, allora da qualche anno noi per esempio quando compriamo gli elettrodomestici, no, abbiamo imparato, molte famiglie lo hanno anche dovuto fare a rate, quindi molto spesso è capitato che anche i rivenditori si siano dovuti attrezzare nel garantire anche tutta la consulenza necessaria alle famiglie per far conoscere loro per esempio i prodotti di finanziamento legati anche alla lavatrice piuttosto che all'elettrodomestico appunto che si doveva comprare. Questo significa che vi siete dovuti anche attrezzare molto in termini informativi sulle questioni legate alle garanzie da offrire alla clientela, appunto proprio sulla vendita dei beni di elettronica di largo consumo, i beni durevoli. Insomma, come preparate anche le vostre reti di vendita su questo? Allora, io distingo il discorso delle vendite laterali dal tema della garanzia. Certo, era solamente per dire che insomma, anche voi avete un bel po' da fare. Diciamo che noi come associazione abbiamo assolutamente combattuto fin dall'inizio questa garanzia convenzionale, che non è altro che un patto tra diciamo, il cliente che non firma nulla, che non accetta, e che non vede di fatto il cliente, che la casa pretenderebbe fosse accettato dal cliente. Noi abbiamo sempre combattuto questo tipo di garanzia perché non garantisce nella forma piena e nei 2 anni veramente tutto ciò che è sotto la responsabilità del produttore. Non mi dilungo nei particolari perché sarebbero anche tecnici e dal punto di vista dei nostri ascoltatori forse abuserei della loro pazienza. La garanzia, quella che conta per noi, è la garanzia legale, quella che noi abbiamo sempre appoggiato, tant'è che abbiamo fatto anche una campagna ovviamente nei nostri negozi italiani di tutte le catene appartenenti ad Ares, dove indicavamo visivamente questo prodotto gode di 2 anni di garanzia legale. L'altro, che non godeva di 2 anni, non abbiamo fatto nessuna menzione, come dire guarda che questo garantisce questo e l'altro non te lo garantisce, e spiegavamo anche cos'era la differenza nei punti vendita. E questo è avvenuto fin dall'inizio, da quando sono nate le primissime contestazioni che poi ricadono a lungo sulla distribuzione, mm-hmm, come noi. Quindi l'abbiamo sempre cosa. Nel tempo devo dire però che i fornitori, per effetto di questa situazione, diciamo così, anche di concorrenza tra di loro, hanno portato quasi tutti la garanzia legale nei loro contratti, quasi tutti. Ci sono ancora dei produttori, qui sono delle grosse multinazionali per le quali abbiamo anche letto sui giornali. Sì, poi magari la ricostruiamo, la famosa vicenda di Apple, si riferisce a quella, Presidente? Ecco, ci sono alcune multinazionali, ripeto, io non faccio nomi perché non ritengo giusto doverlo fare dalla mia posizione. Va bene, non si preoccupi, la faccio io per lei. Lei lo può fare. Ecco, diciamo che praticamente continuano con una garanzia di 1 anno in taluni casi, addirittura. Lasciando poi la distribuzione in grossissime difficoltà con i loro clienti. Noi combattiamo quanto le associazioni dei consumatori questo atteggiamento dei produttori. Abbiamo fatto anche per quanto riguarda la informazione e per capire quanto i consumatori sono informati sulla differenza che passa tra la garanzia legale e la garanzia convenzionale, un comunicato stampa a novembre dove abbiamo certificato che l'80% ormai dei consumatori conosce bene cosa significa l'una garanzia rispetto all'altra, quindi dal punto di vista di porci in posizione proattiva verso i consumatori abbiamo fatto non di più, il massimo, perché abbiamo esposto cartelli all'interno dei punti vendita spiegando le differenti caratteristiche delle due garanzie e diciamo orientando anche in termini di vendita i consumatori su quei prodotti che avevano la garanzia. Benissimo. No, tra l'altro adesso stavo anche riflettendo, è un problema che non dovrebbe neanche essere un problema se tutte le società che forniscono appunto questi beni teoricamente hanno la garanzia legale. No, il problema nasce quando abbiamo il sospetto che invece abbiano la loro garanzia, quella di casa, Gianfranco, come vogliamo chiamarla, appunto quella convenzionale. E, oltre al caso di Apple, poi ribadisco, dopo lo raccontiamo, magari così magari qualche ascoltatore ci si ritrova dentro e ci racconta se gli è successo qualche episodio di aver bisogno di assistenza appunto sul personal computer e non l'ha avuta secondo almeno i termini che si aspettava. Ma ci sono anche altre grandi società che sono rigide su questo? Ma soprattutto quelle legate magari al mondo della telefonia. Sono i cellulari, lo sappiamo, sono prodotti che si consumano molto velocemente, non fosse altro che vengono usati anche molto, sono prodotti portatili, cascano qualche volta casca nell'acqua, evidente, e bisogna ricordare che tutti i danni che derivano da un utilizzo improprio non sono coperti dalla garanzia. Se mi casca in mare il cellulare, anche se poi lo asciugo ma non va, è un cellulare che non verrà riconosciuto in garanzia, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che all'interno dei cellulari, per esempio, ci sono delle sorte di cartine al tornasole che segnalano all'assistenza se c'è stato un annegamento del telefono, quindi se c'è stata un'intromissione di acqua, nel caso specifico. Quindi ci sono alcune categorie che ancora tendono a non riconoscere una garanzia convenzionale, però io vorrei dividere il problema in due. Quindi io capisco la posizione del Presidente Sonato, però la garanzia di legge deve essere riconosciuta dal rivenditore, questo dice la legge. In più c'è una garanzia convenzionale che il produttore questa volta può riconoscere o anche no, ed è nei termini di legge. Il problema interviene quando la legge dice che il rivenditore ha comunque un diritto di rivalersi nei confronti del produttore o del suo fornitore dei costi sostenuti. E siccome poi la legge si ferma lì, non deve essere scaricato il problema sul consumatore finale, dico io. No, ci fermiamo, ma neanche sul rivenditore, però la legge non dice niente di più e quindi non va avanti. Quindi lì si apre tutta una zona grigia in cui se il produttore riconosce 2 anni, il rivenditore è in qualche modo tutelato anch'esso. I problemi intervengono laddove il produttore non riconosce i 2 anni e quindi c'è più che un problema di capire dove stanno i costi tra consumatore e rivenditore, perché la responsabilità è del rivenditore, e poi cosa succede di questi costi tra rivenditore e produttore. Ecco, okay. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande che adesso cominceremo a sentire. Alcuni ascoltatori, Gianfranco, ci chiedono l'indirizzo esatto della tua testata digitale in modo che possano scaricarsi la guida completa, le garanzie. È D-Day, come Digital Day, quindi giornata digitale, visto che siamo un quotidiano di fatto. dday.it. Benissimo, cominciamo a sentire gli ascoltatori insieme a Gianfranco Giardina, che è appunto il direttore di questa rivista online. C'è anche il presidente di AIRES, l'Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, che è Albino Sonato, per rispondere anche alle domande degli ascoltatori e chiacchierare con noi questa mattina di questo argomento. Cominciamo con Albertina da Pistoia all'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno Deborah, ti ascolto tutte le mattine, sei molto brava molto e affronti sempre argomenti molto molto molto interessanti. Mi piace fare la casalinga, Albertina, sai com'è. Dunque, io ha ragione il Presidente quando dice, perlomeno per quanto mi riguarda, che si va a cercare di risparmiare su ogni cosa, diciamo. Io ho comprato un televisore, anzi due, perché l'ho comprato insieme a una delle mie figlie a Panorama. Dunque, questo televisore non si spenge, quando dice di non spengersi non si spenge neanche manualmente. Io devo staccare la spina. Ma non ci credo. Davvero, ma è una cosa, è indemoniato, guarda, è posseduto questo televisore. E siccome sono tutte e due, cioè hanno questo difetto, quindi se cioè due su due difetto di fabbricazione, sì. Io ho portato il mio al centro assistenza, che è un televisore Thomson, tengo a dirlo perché così vediamo un po' se si ottiene qualcosa di più. L'ho portato al centro assistenza, me l'hanno reso uguale, cioè non si spenge né ancora, io devo staccare la spina e quando riattacco la spina si riaccende immediatamente da solo. C'è un sistema, c'è un qualcosa che io posso fare, perché non so neanche... Posso avere in casa un televisore normale, Albertina, ci mancherebbe altro. Allora, aspetti lì, prima vorrei sentire immediatamente il presidente di AIRES, presidente Sonato. Allora, a parte che veramente ha fatto bingo la nostra ascoltatrice, perché due su due, veramente... Vabbè, detto questo, insomma, che cosa deve fare secondo lei? Deve riconsegnare al rivenditore questi due televisori, perché mi pare il minimo sindacale che si accendano e spengano regolarmente, che ne dice? Sì, allora io non entro nel lato tecnico perché è un tema molto particolare. Io intanto rappresento le associazioni di negozi specializzati di elettronica di consumo e non la grande distribuzione, che ha un modo di distribuire i prodotti molto diverso. Ad esempio, noi abbiamo fatto un accordo con l'Authority per essere noi il punto di riferimento, diciamo, con il cliente quando ha un problema del prodotto in garanzia. Non lo prevede la legge, oltretutto è obbligatorio per legge che chi vende il prodotto lo ritiri e si adoperi per ripararlo. Quindi, diciamo così, quella organizzazione sicuramente avrebbe dovuto rispettare la legge. Ecco, pertanto se non l'ha fatto vuol dire che chiaramente è inadempiente, insomma, dal punto di vista legale. Beh, a noi sembra infatti il minimo che, allora, a parte il fatto che l'hanno ripreso per aggiustarlo, ma che glielo riconsegnino poi con lo stesso difetto, con lo stesso vizio di non conformità, poi Gianfranco, chiamiamolo come vogliamo, però veramente un po' paradossale il caso dell'ascoltatrice. È paradossale, l'ascoltatrice dice di essere andato presso un centro assistenza e di averlo portato, quindi di aver anche sostenuto dei costi anche indiretti per averlo portato. La legge prevede che invece la garanzia venga riconosciuta dal rivenditore, quindi due TV, se difettosi, andavano riportati dal rivenditore, che non può semplicemente darci la lista dei centri di assistenza. Cioè, è una scelta poi del consumatore se vuole rivolgersi direttamente al centro di assistenza e quindi di fatto invocare la garanzia convenzionale. Per quello che riguarda la garanzia di legge, l'unica interfaccia è il rivenditore, che, come dice giustamente il presidente Sonato, è, se è serio, è attrezzato per ricevere questa merce, anzi per andarla a ritirare e riconsegnarla riparata, perché questo prevede la legge, soprattutto laddove l'apparecchio è ingombrante, quindi è un TV, uno può essere non in condizione di trasportarlo facilmente, magari ha chiesto l'aiuto a un amico per portarlo a casa la prima volta, beh, in quel caso può chiedere al rivenditore di andarlo a prendere. Se è piccolo l'apparecchio, tanto che deve andare in negozio, già che c'è, lo porta. Poi il rivenditore si occuperà lui di farlo riparare, quindi riportare il bene in conformità. Se quello è un difetto di tutta la serie, molto strano che questo sia un difetto di tutta la serie, perché due su due è abbastanza grave. Se fosse un difetto di tutta la serie, il consumatore ha diritto a riavere il suo bene in conformità, scegliendo se, per esempio, una riparazione, ma se la riparazione non è possibile, la sostituzione, o nei casi più drastici anche la rescissione del contratto, quindi restituzione intera dei soldi e restituzione evidentemente al rivenditore. Magari in questo caso è abbastanza difficile, credo che ti restituiscano in contanti quello che tu hai speso. Generalmente le società, credo, eroghino magari dei bonus per acquistare, che ne so, un tot di beni di pari cifra. Però la rescissione del contratto prevede invece la riconsegna. Certo che è l'ultima ratio la rescissione del contratto, cioè ci si arriva se gli altri rimedi, cioè riparazione o sostituzione, non sono percorribili. C'è un'altra curiosità che lo raccontava Gianfranco prima dell'inizio della trasmissione, mi aveva molto divertito leggendo parte della guida che loro pubblicano appunto quest'oggi, la questione dell'onere e la prova. Dopo sei mesi c'è l'inversione, perché nei primi sei mesi di possesso del bene, adesso così magari riprendendo un po' spunto il caso dell'ascoltatrice di Pistoia che ci ha appena chiamato, la legge presume che la non conformità, quindi il difetto del bene, che si manifesta appunto nei primi sei mesi, sia stata occultamente presente al momento dell'acquisto. Quindi se l'ascoltatrice avesse scoperto questi difetti dei suoi due televisori entro i sei mesi dall'acquisto, poteva chiaramente rivendicare con ancora più forza, insomma, il diritto ad un nuovo televisore. Sarebbe il rivenditore a dover dimostrare che invece quei difetti sono occorsi perché per un errato utilizzo, per esempio, o piuttosto che perché, supponiamo, la rete elettrica della nostra ascoltatrice ha dei difetti, cosa molto strana, ma improbabile, supponiamo, in questo caso. Dopo i sei mesi invece l'onere della prova ricade sul consumatore, che in teoria dovrebbe attrezzarsi per essere quasi un laboratorio tecnico, un centro d'assistenza, no? E dimostrare che quel difetto che si manifesta è un difetto di fabbrica, cioè un difetto che è quindi preesistente e non introdotto con un uso errato. Questo spesso è impossibile, per questo motivo, e qui torniamo al discorso della prassi di cui parlavo prima, che la legge è irrealistica da questo punto di vista, la prassi prevede che sia il centro d'assistenza, che comunque viene interpellato poi anche dal rivenditore, perché il rivenditore non è attrezzato per fare le riparazioni in proprio, a fare da terza parte, come dire, quindi valutare se effettivamente quel difetto è preesistente, quindi di fabbrica, oppure no. Bisogna fare un ulteriore distinguo sul concetto di conformità, di cui abbiamo parlato, il difetto di conformità. La conformità è un concetto più ampio della difettosità, che prevede anche, per esempio, le promesse di vendita, le promesse pubblicitarie, e anche quello che è ragionevole pensare che un apparecchio faccia. Quindi se io compro una macchina del caffè e questa poi casualmente ha solo la forma della macchina del caffè, ma il caffè non lo fa, beh, io sono ragionevolmente portato a pensare che quella macchina debba fare il caffè. Quindi anche se non c'è scritto sulla confezione, nessuno mi ha detto che quella è la macchina del caffè, ecco, quello lì è già un difetto di conformità. Se il rivenditore mi dice questo apparecchio fa il caffè e poi il caffè non lo fa, bene, quello è un difetto di conformità. Quindi vediamo che si va oltre il difetto, proprio il non funzionamento del prodotto, ma anche il fatto che quando mi è stato venduto mi sia stata promessa una cosa e poi questa cosa effettivamente non venga mantenuta. Questo, se è così abbastanza bizzarro per la macchina del caffè, no? Questo esempio che abbiamo fatto, potrebbe essere più ragionevole, per esempio, se un rivenditore mi dice: ma guardi, per la sua stanza 5x5 questo condizionatore è più che sufficiente, e poi scopro che invece non lo è, e beh, questo è un difetto di conformità. Se il rivenditore si espone e mi dice che questo è più che sufficiente, bene, io sono portato a pensare che è più che sufficiente, quindi o me ne darà uno più che sufficiente, certo, oppure a questo punto se lo entra ritiro. Anche in gioco qua, poi magari se abbiamo tempo ne parliamo, Gianfranco, il fattore umano, perché può essere anche che nella scelta di un elettrodomestico, durante la chiacchiera con l'operatore, l'operatore si è portato chiaramente per potertelo vendere, è logica commerciale, a prometterti magari molto di più rispetto a quanto il bene invece non sia in grado di garantire. Però ci sono anche dei libretti di istruzione molto dettagliati oggi, anzi per obbligo ai miei condizionatori erano associati, non lo so, 5 libri tutti in lingue diverse, ovviamente ne ho buttati un po', con l'italiano me lo sono tenuto, vedremo. Il problema è che normalmente i libretti di istruzione non vengono letti prima della conclusione del contratto, certo, d'acquisto, e quindi non fanno parte di quelle promesse. Mentre quello che il rivenditore dice, sì, anche per questo però, il consiglio è sempre di rivolgersi ai rivenditori seri. Il verba volant, come tu sai, un altro principio del commercio molto diffuso. Andiamo a sentire altri ascoltatori. Sentiamo Daniele da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Daniele. A mia suocera ha comprato un elettrodomestico per il mare. Sì. Una macchina dal gas, quindi è una cosa abbastanza ingombrante. L'ha portata al mare, ha acceso i fornelli, funzionava, sì, tutto bene. Poi che cosa? Siamo tornati l'anno dopo, mia suocera ha provato a accendere il forno, non funzionava, perché c'aveva un difetto sulla manopola, ma era evidente, era stato lì fermo, quindi non gli era successo niente. Abbiamo chiamato il venditore. Il venditore ci ha dato il numero dell'assistenza. Chiamo io l'assistenza, cosa succede? L'assistenza dice: è colpa la ditta è fallita. Ah. No, la ditta è fallita, quindi se voi volete l'assistenza, dovete pagare l'intervento, diciamo, il fatto che io vengo a casa vostra, poi i pezzi, se è in garanzia, non li pagate. Io ho richiamato il venditore e il venditore dice: questo del fatto che non dovete pagare l'assistenza è soltanto per i primi 6 mesi, come dicevate voi. Ora io volevo sapere, ma che cosa deve fare? Si deve tenere il pezzo rotto? E certo. Allora, volevo andare al presidente Sonato per sentire che cosa ne pensa di questo caso. Secondo me stiamo disperdendoci in un mare di esempi che servono a poco. Presidente, però non è corretto. Arrivo. Cioè, sono però le cose che succedono. Io parlo per ciò che rappresento, non posso parlare per ciò che non rappresento. L'organizzazione AIRES è fatta da alcune catene molto importanti, delle quali non posso fare nomi, ma se vuoi ti posso anche fare. Ma non c'è bisogno, Presidente, era solamente per chiederle con un po' di buon senso che cosa deve fare. Hanno preso degli impegni ben precisi con l'Authority e abbiamo esposto all'interno dei punti vendita tutte quelle che sono non solo le normative per continuare la garanzia, ma anche quelli che sono gli impegni che noi ci siamo presi con i consumatori per rispetto della legge quando il prodotto è difettoso. Quindi, se il prodotto è grande, noi chiamiamo noi l'assistenza e la mandiamo a casa del consumatore, che può riparare sul posto o ritirare a seconda del guasto. Se il prodotto è piccolo, noi lo riceviamo nei punti vendita e ci accogliamo l'onere di farlo riparare gratuitamente. Punto. Io dico, AIRES e i membri di AIRES operano così. Ecco, quindi questo è già un suggerimento, per esempio quando si va a fare ad un acquisto, cercare quel rivenditore che già anche proprio per struttura, presenza sul territorio, possa dare con certezza poi queste garanzie successive, quindi magari evitare di fare l'acquistone a sconto legittimo, però poi sappiate che magari in un momento successivo di difficoltà recuperare l'assistenza adeguata è più complicato, come può essere successo per Daniele di Roma, che poi tra l'altro si è anche ha dovuto anche affrontare la situazione di una società che è fallita. Alcuni ascoltatori ascoltatori, salutiamo Laura che è un'amica di Salvadanaio, ci chiedono appunto anche chiarimenti relativamente alla questione dello smaltimento del vecchio elettrodomestico qualora si compri il nuovo. Mediamente, Gianfranco, so che appunto le aziende si incaricano anche per il corretto smaltimento soprattutto di questi pezzi del recupero. Lo fanno per legge, perché la legge che prevede i RAE, quindi i rifiuti elettronici elettrotecnici, prevede l'uno contro uno. Quindi se compro una lavatrice ho diritto al ritiro gratuito della lavatrice che vado a sostituire. Allora, Daniele da Roma e la rosa di sfortune nelle quali ha incappato: il gas che non funzionava, l'ha portato al mare per farlo stare in vacanza tranquillo, questo povero apparecchio, però poi apparteneva anche ad un'azienda che nel frattempo è fallita e lui non ha assistenza per sistemarlo. Beh, dico che in realtà seguire la legge è più importante che non fallisca il rivenditore. Il rivenditore doveva riconoscere l'intervento in garanzia e purtroppo non aveva più nessuno su cui rivalersi, fa parte del suo rischio d'impresa, ed è la scelta dei rivenditori di lavorare con fornitori seri. Anche qui tutto porta ad avere un mercato più sano. Se io ho dei produttori che fanno magari dei prezzacci, ma se ho dei prodotti poco affidabili, ma soprattutto sono loro poco affidabili, non sappiamo se esisteranno, beh, un buon rivenditore non tratta quel marchio. Se invece il rivenditore è meno serio e vuole fare il prezzone per avere magari il volantone, un grande flusso in negozio, ma questo non avviene con i rivenditori seri, sicuramente quel fornitore non entra e poi fallisce voglio dire, non importa. Un consiglio a Daniele e a tutti gli altri consumatori: se lo scopo è portare il bene in una casa lontana, al mare, in montagna, è meglio comprarlo nei pressi di questi di queste località. Località. Perché siccome poi il rivenditore è quello che deve riconoscere la garanzia, magari avere a che fare con un rivenditore che sta a 200, 300, 500 km di distanza è sempre molto complicato. E questo può essere mitigato dalle grandi catene. Le grandi catene riconoscono normalmente, ma anche qui è bene informarsi, la garanzia in qualsiasi punto vendita della catena, ma anche qui ci sono dei distinguo, perché dietro alcune insegne non ci sono gli stessi imprenditori, quindi è bene informarsi prima dell'acquisto. Se io per esempio compro nel negozio con l'insegna A e vado a 500 km di distanza dove c'è un altro negozio della stessa insegna, se posso poi rivolgermi a quest'altro negozio per le mie esigenze di garanzia. Allora, Apple l'abbiamo evocata sin dall'inizio, sentiamo Alberto da Trento, così la ricostruiamo in un minuto di tempo perché non abbiamo ancora molto spazio. Alberto, buongiorno. Buongiorno Deborah, grazie dell'opportunità. Grazie a lei. Non voglio rubare molto tempo, visto che il tema è molto interessante. Sì. Passo subito alla domanda. È corretto e rientra nella normativa che Apple, in caso di guasto anche nei primi giorni del mio prodotto, parliamo di un iPhone, mi restituisca il prodotto anziché il mio, un rigenerato, diciamo così, non so se il termine è corretto, comunque non il mio, ma un telefono che è stato in mano ad altri e riparato, rigenerato. Chiedevo se grazie. Era corretto, se rientra nella norma. Sentiamo grazie. Gianfranco Giardina. Allora, intanto, perché Apple con la sua politica commerciale, le garanzie post vendita, ha fatto tanto clamore in Italia? Cosa è successo? Che cosa disturba i consumatori? E che cosa vuol dire consegnare un prodotto rigenerato? Sì. Allora, molto sinteticamente, i punti su cui Apple è entrata in lotta, diciamo, in con i consumatori e poi con l'autorità, ha riguardato appunto questi due aspetti. Uno è l'estensione di garanzia che Apple offriva, che era già attiva dal secondo anno, quindi subito dopo la scadenza del primo anno, e della garanzia convenzionale offerta da Apple, che è di un solo anno. E questo chiaramente, secondo molte interpretazioni, ma a mio avviso correttamente, va in conflitto con la garanzia che deve essere assolutamente prevista per legge dal rivenditore, quindi si offriva a pagamento un servizio che in larga parte doveva essere gratuito. Il secondo aspetto invece riguarda il fatto proprio che ci sia questa garanzia di un anno, che è convenzionale, ma che è anomala nell'istante in cui Apple vende direttamente. Questo avviene negli Apple Store online e negli Apple Store fisici. In quel caso Apple pretendeva, poi andiamo a vedere le differenze, di comunque avere la garanzia di un anno, perché sui prodotti Apple la garanzia è di un anno. Può farlo da produttore, ma non può più farlo da rivenditore. Deve garantire il prodotto per due anni. Su questo punto l'Authority ha molto discusso e ha combinato la multa, che poi è stata confermata, in realtà un pannicello caldo rispetto ai fatturati che producono queste aziende. Si parla di 900.000 euro. Ma per questo che loro vanno avanti nella conflittualità, perché non gli tocca neanche un dente, come dico io sempre. Assolutamente niente. Da questo punto di vista, se si compra un prodotto Apple, per esempio, visto che abbiamo collegato il presidente Sonato, in un negozio delle catene associate ad Aires, si ha la garanzia di 2 anni presso il rivenditore. Se lo compro all'Apple Store, devo stare a discutere. Anzi, peggio ancora, mi viene scritto sullo scontrino la data di scadenza della garanzia a 1 anno dall'acquisto. Evidentemente si tratta della garanzia convenzionale, ma la garanzia di legge deve essere comunque prevista. Apple ha aggiunto alla sua documentazione sul sito, si può andare a vedere sul sito di Apple un documento aggiuntivo che spiega come invece la garanzia di legge 2 anni viene comunque riconosciuta, ma in realtà non parla di difetto di conformità, parla soltanto di difetto di fabbricazione, quindi è molto parziale, e poi chiaramente col giochino dei 6 mesi, l'inversione della prova, praticamente riconosce soltanto difettosità nei primi 6 mesi, se no bisogna dimostrare l'iPhone rigenerato dell'ascoltatore? L'iPhone rigenerato è una pratica che viene utilizzata spesso in informatica, diciamo, per diminuire violentemente i tempi di riparazione, perché praticamente sono istantanei. Cioè io do un iPhone guasto, mi viene restituito un iPhone rigenerato nello stesso momento. Il mio iPhone guasto in teoria diventerà quello rigenerato per qualcun altro una volta riparato. Certo è che questa pratica, che porta sicuramente dei vantaggi, può non piacere, e secondo me se il consumatore chiede espressamente la riparazione del suo bene, può ottenerlo. Lo può utilizzare tipo un'auto sostitutiva, quello rigenerato? No, non può utilizzarlo temporaneamente? Sarebbe utile, sarebbe bello. La legge parla di riparazione in tempi congrui, ma non li quantifica. Secondo me la riparazione in tempo congruo per un cellulare che viene usato diverse volte al giorno è di qualche ora. Allora, senti Gianfranco, giorni. Io fra 40 secondi devo chiudere la trasmissione. Presidente Sonato, faccio fare 10 secondi a lei, un'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori per evitare il più possibile di incappare anche in disavventure. Poi chiaramente gli elettrodomestici sono delle macchine, si rompono e questo, come dire, non lo possiamo certo scongiurare completamente. 2 raccomandazioni per chiudere i nostri ascoltatori. Acquistare nelle catene che espongono in maniera molto chiara le caratteristiche delle 2 garanzie, e soprattutto quelle che danno anche tutte le informazioni per come comportarsi dopo l'acquisto su un'assistenza di un prodotto. Esatto, se troviamo insomma un rivenditore le nostre aziende lo fanno, in tutti i punti di vendita ci sono addirittura, per ogni consegna si consegna al cliente un piccolo documento dove si danno le informazioni di comportamento quando si guarda il prodotto. Quindi controllare insomma che il rivenditore sia un associato Aires in questo caso. Grazie molte, ci sarebbero tante altre cose da dire, non ce la facciamo, ritorneremo su questi argomenti. Andiamo alla nostra pillola IMSS di oggi e continuiamo a parlare delle regole valide per la gestione separata. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. Quali prestazioni previdenziali assicura la gestione separata a coloro che vi sono iscritti? Agli iscritti, la gestione separata garantisce le prestazioni previdenziali previste in generale per la generalità dei lavoratori. E, in particolare, anche alla luce dell'ultima riforma, i tipi di pensione della gestione separata sono la pensione di vecchiaia cosiddetta contributiva, perché basata sui contributi versati, la pensione anticipata, quella di invalidità e quella per i superstiti. I requisiti richiesti sono quelli propri stabiliti per ciascuna di queste prestazioni nel regime generale. Ma, essendo una gestione nata nel 1996, è evidente che è ancora giovane e che dunque comincerà a erogare le prestazioni accennate solo negli anni a venire. Andate sul portale di tecnologia di day.it, troverete anche le regole per l'acquisto tramite internet del telefono, del computer o dell'elettrodomestico. Grazie a Gianfranco Giardina, grazie a tutti, ci sentiamo domani, buona giornata.